Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e ben ritrovati come ogni domenica. Un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio, anche stasera. Anche questa sera con un ospite, diciamo, di tutto illustre, riguardo, sì. Un ospite in carne ed ossa, che è lo storico Ivano Sartor. Dottor Ivano Sartor. Buonasera, dottor. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, e noi ringraziamo naturalmente per il gradito ritorno, anche perché questa sera si parlerà di un argomento molto particolarmente importante che sì. Parla delle origini del cristianesimo a Treviso. La cosa è naturalmente ponderosa, ma cercheremo di renderla intelligibile e digeribile ai nostri sì, ascoltatori, ai quali diamo un cordiale benvenuto naturalmente su Blu Radio Veneto. E li invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Con un saluto particolare al nostro regista. Benissimo. Allora, cosa dici? Allora, noi possiamo iniziare con un primo brano, è improprio parlare di canzoni, un brano che poi diciamo avrà anche una breve spiegazione da parte dell'ospite, di Nino Rota, dalla Missa Brevis, Credo, Accademia Corale Teleion. Benissimo. Yeah. eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola per anche una precisazione su questo brano che abbiamo appena ascoltato. Questo è il credo, cioè il simbolo della fede, del quale parleremo anche proprio in tema di origine del cristianesimo fra poco. Ed è una versione, questa, interessante, perché la prima mondiale di questa Missa Brevis di Nino Rota, celebre compositore anche delle musiche dei film di Fellini, ma di tante altre cose, insomma, la prima esecuzione mondiale è avvenuta in Duomo di Treviso, nella cattedrale, però, con il coro diretto dal maestro Giovanni D'Alessi, Monsignor D'Alessi. Io tra l'altro ero uno dei pueri cantori, se ancora me lo ricordo Nino Rota seduto negli stalli vicino alla tastiera dell'organo, che ascoltava Monsignor D'Alessi nella sua esecuzione, appunto. Ed aveva voluto proprio che fosse D'Alessi, perché era un grande musicologo e quindi si era messo nelle sue mani. Tra l'altro è tutto documentato anche in qualche opera stampata. Questo era nel 1965, ma questa è una chicca. Perfetto. Diciamo. Allora iniziamo subito con una domanda, diciamo, per entrare nel vivo dell'argomento. Quando si è formata la struttura ecclesiastica della Pieve? Allora, la Pieve è una struttura base dell'ecclesia antica, dell'ecclesia dei primi tempi in cui il cristianesimo si struttura e si organizza. Ne parleremo in modo specifico per questa regione, la Venezia, e in modo particolare per Treviso. Però dobbiamo dire che questa strutturazione della Chiesa, della prima Chiesa, avviene dopo la libertà del culto, cioè dopo il famoso editto di Milano del 313, quello di Costantino e di Licinio. Prima, ecco, la struttura base era l'ecclesia, come si può dire, fondata sul vescovo, cioè il vescovo è comunque centrale, rimane comunque centrale in tutta la storia, certo, della Chiesa. Ovviamente poi c'è questo primato, ecco, del vescovo di Roma, ecco, tra tutto il corpo episcopale, ecco. Ma nella struttura territoriale abbiamo il vescovo, ubi episcopus, ibi ecclesia, no? Il famoso detto, e nella strutturazione territoriale la struttura base diventa la Pieve. Però qui, ripeto, parliamo del IV secolo dopo Cristo. Ovviamente il cristianesimo arriva in queste zone non organizzato, non strutturato, eccetera, ma sicuramente arriva in età apostolica il messaggio, l'annuncio dell'Evangelium, della buona notizia, perché questo era un territorio importante dal punto di vista dell'impero romano, strutturato, con vie di comunicazione, con strade imperiali che collegavano questa decima regio, ecco, che prima, ecco, prima di Diocleziano non c'è la decima regio, ma insomma questo territorio era connesso con Roma e con il nord, ecco, esatto, attraverso delle importanti strutture viarie. Basti, esatto, che pensiamo alla Viannia che proviene da Padova ma si ricollega a Rimini e quindi a Roma, ecco, e finisce ad Aquileia. E basta che pensiamo dopo, successivamente, nel primo secolo avanti Cristo e primo dopo Cristo, la via Claudia Augusta. Ma poi c'è la via Postumia, insomma, che connette tra est e ovest. Quindi, ecco, quindi, e poi c'erano le comunicazioni marittime. Importanti porti, Aquileia aveva un porto molto importante, Altino aveva un porto, insomma, esatto. E quindi questa navigazione endolagunare per i famosi Septem Maria, i sette mari, no? Cioè praticamente le zone delle lagune da Ravenna in su fino verso il nord, fino ad Aquileia, ecco, erano anche quelli dei punti di collegamento. Quindi le notizie, le novità, tutte, quindi le informazioni e quindi anche l'attività apostolica nel periodo proprio del primo periodo dopo la risurrezione di Cristo, ecco, arrivano anche in questa zona sicuramente. C'è un detto degli storici che il cristianesimo nel primo periodo si usa una forma, si diffuse sensim et sine sensu, che non vuol dire sensim, vuol dire progressivamente, gradualmente, non vuol dire et sine sensu, non vuol dire senza un senso, certo. Ma vuol dire senza un programma ben prestabilito, non c'era un'organizzazione. Senza linee guida. Oggi senza, andiamo, esatto. Ma vuol dire, ecco, progressivamente e senza un disegno preordinato. Ecco, ovviamente così. Paolo era arrivato fino all'Illiria, no? Poi nella Dalmazia c'è Tito, come evangelizzatore, e San Paolo non arriva nel nord, no, ecco, no, della penisola iberica, in quella che era l'ex Jugoslavia, no? Dalmazia, perché appunto lui aveva anche un orientamento, lo dice esplicitamente in una sua lettera, dice che lui non va mai a evangelizzare sopra delle fondamenta altrui, cioè dove c'era qualcuno che aveva già portato il Vangelo, ecco, lui preferiva non passare di là, ecco, per non edificare sopra fondamenta altrui, lo dice esplicitamente in una lettera, e cita il fatto che la Dalmazia era stata, vi era la presenza in Dalmazia di Tito. Quindi questo è il periodo precedente alla libertà del culto. Successivamente, quando ci sarà, ecco, con il 313, l'editto di tolleranza, cosiddetto editto di tolleranza di Milano, che equipara il cristianesimo alle altre religioni, quindi da religio illicita diventa religio licita, e quindi dà la possibilità di svolgere l'attività pastorale ai vescovi e ai presbiteri, ecco, allora lì ovviamente da lì nasce una strutturazione nel territorio. Se noi, ritornando al concetto di pieve, pensiamo alla parola pieve è una parola latina, plebs vuol dire pieve, no? E cosa vuol dire plebs? È il popolo. Il popolo. La pieve coincide col popolo. Oggi, se noi interpelliamo una persona per strada, io domandiamo cos'è la pieve, ci indicano una chiesa in genere, ci dicono è la chiesa vecchia di Giavera, è la chiesa vecchia di San Biagio di Callalta, ecco, o di San Cipriano di Roncade. Ecco, per la gente c'è questo significato traslato su un edificio. In realtà la concezione della pieve, la pieve è un'organizzazione che coincide col popolo di Dio, cioè quindi la chiesa, la pieve, la plebs, il popolo, e dove vanno a collocarsi queste chiese nel territorio? Nelle zone più popolate di quel periodo del quarto secolo. Quindi siamo alle origini comunque del cristianesimo, perché adesso lo vedremo, magari lo spiegheremo con un po' di approssimazione, perché l'argomento è molto complesso. Ecco, chi vuole approfondire ha anche un mio libro che è stato pubblicato nel 2010, Le origini del cristianesimo a Treviso, esattamente. Ecco, e insomma, sono una settantina di pagine dove ho cercato di fare il punto sulle origini del cristianesimo a Treviso. Con dedica. Con la dedica, sì, l'ho editato in onore dell'ingresso del vescovo Monsignor Gianfranco Gardin, nostro vescovo, riprendendo un'antica consuetudine che era in vigore fino agli inizi del Novecento, cioè quello di omaggiare, non so, una coppia di sposi, oppure un parroco che entrava in una parrocchia, un vescovo che entrava in diocesi, con un'opera letteraria. Io avevo pronto questo studio e ho dato questa finalizzazione proprio in onore del nostro vescovo, certo. Insomma, che ricordiamo che nella nostra dottrina il vescovo è il successore degli apostoli, e quindi andiamo sempre tramite la figura del vescovo a ricollegarci alle origini del cristianesimo. È una materia complessa. Fino Prima di questo mio studio esisteva soltanto un piccolo contributo del professor Giovanni Netto di pochissime pagine, credo meno di una decina di pagine. Ah, proprio uno sì. Spunto, diciamo, e poi storico. Su un po' tutta la storiografia trevigiana la fase delle origini del cristianesimo viene liquidata con mezza paginetta, una paginetta, riprendendo argomenti già noti. Certo. Io ho cercato di far parlare le fonti e la documentazione che abbiamo senza pretesa di scoprire nulla di nuovo, perché i documenti scritti sono tutti noti ormai da secoli, quelli importanti. Di carattere diverso. È un'organizzazione diversa, e facendo parlare tante fonti, anche il territorio parla, anche la realtà geofisica può darci delle informazioni. I titoli delle chiese, cioè le dedicazioni delle chiese, sono anche importanti per capire la loro epoca. Ecco, e quindi ci sono tanti elementi che ho cercato di approfondire. Perfetto, allora noi passiamo adesso al secondo brano musicale, che verrà riconosciuto da molti che hanno i capelli grigi, presumo, e la chanson baladée, che era una sigla di apertura della rubrica televisiva Almanacco del giorno dopo. Ed eccoci in studio di nuovo per un'altra domanda, diciamo. Quali sono le origini cristiane di Treviso e la sua evangelizzazione? Esatto. Allora, anche qui dobbiamo muoverci in un ambiente, per quello che riguarda la decima regio Venezia et Istria, cioè la nostra zona, in modo specifico Treviso, in un ambiente privo di notizie dirette, nel senso che le fonti documentarie che abbiamo, epigrafiche soprattutto, no? Le iscrizioni antiche, sono molto tarde. Le fonti scritte da codici e trascrizioni sono ancora più antiche, sono delle leggende, cioè che non vuol dire delle favole o leggende, ma nel senso dei testi da leggere, ecco, delle leggende che riguardano la vita dei martiri, vita dei santi, che sono anch'esse piuttosto tarde, cioè VI-VII secolo dopo Cristo. I reperti archeologici paleocristiani della nostra zona sono rarissimi. Rare sono le lucerne col monogramma costantiniano, cioè con la croce, oppure con altri simboli paleocristiani, tipo i pesci. Rare sono nella stessa grande città di Altino, grande città romana di Altino, e per Treviso la prima lucerna col monogramma cristiano, ecco, lo abbiamo soltanto, abbiamo solo un esemplare del IV secolo, quindi siamo in periodo successivo alla libertà di culto per i cristiani. Però sicuramente nella nostra regione vi sono due presenze documentate, certe, di una chiesa strutturata con a capo un proprio episcopus, con un vescovo, ad Aquileia, già nel terzo secolo, cioè verso la metà del terzo secolo, quindi potremmo stare tra il 250 e il 300, ecco, e che è un periodo di grandi persecuzioni, tra l'altro. Noi abbiamo queste due presenze documentate, sono Aquileia e Padova, con dei grandi vescovi, alcuni di tradizione, cioè nel senso, per esempio a Padova c'è la figura di Prosdocimo, di San Prosdocimo, esatto. Ecco, mentre ad Aquileia c'è la figura di Ermagora, mentre Ermagora, che è il proto martire, il primo martire della regione, Sant'Ermagora, no? Che lo vediamo dipinto girando per le basiliche ad Aquileia, a Grado, eccetera. Ecco, mentre il mago è una figura storicamente documentata, per Prosdocimo è una figura lo stesso storicamente documentata, però per un periodo più tardo. Poi le leggende hanno retrodatato, ecco, il ruolo di Prosdocimo. In ogni caso, però, alla metà del terzo secolo, e tra la metà e la fine di questo terzo secolo, c'è una chiesa organizzata, ecco, in queste due grandi realtà dell'impero romano. Teniamo presente che Aquileia era una delle metropoli romane, la seconda, la terza, adesso non ricordo bene, ecco, città romana della penisola italica. Padova era lo stesso estremamente importante come città, al centro degli assi viari che abbiamo citato in precedenza. Nel resto del territorio, comunque, abbiamo detto che i cristiani c'erano, perché la notizia del Vangelo, l'annuncio del Vangelo era comunque arrivato anche in questi territori, che non erano territori abbandonati, ma erano territori insediati dalla presenza dell'uomo, con città, con municipia, con vici, cioè e con pagi, che erano il pagus, era il paese più grosso, diciamo, oggi lo definiremo un paese, ecco il termine pagus. Ecco, e sicuramente, ecco, cristiani ce n'erano, quindi è presumibile che anche nella città di Treviso, che era già diventata municipium abbastanza tardi rispetto ad Altino, Padova, Aquileia, eccetera, ma aveva già delle proprie magistrature, eccetera, sicuramente delle ecclesie domestiche dovevano pure esserci, almeno una ecclesia domestica, nel senso dei luoghi di ritrovo, in abitazioni private, ecco, di questi primi credenti al Vangelo di Cristo. E ovviamente, abbiamo detto, siamo in periodo anche di grandi persecuzioni. Il periodo più duro, quello degli stermini di massa di cristiani, è stato quello di Diocleziano, quindi tra la fine del terzo secolo e l'inizio del quarto secolo, insomma poco prima di Costantino, insomma c'è una grande quantità, ecco, di martiri. Però dobbiamo anche precisare che nella regione, nella decima regio, i martiri sono relativamente pochi rispetto ad altre parti d'Italia. Nel senso che dal Martirologium di San Girolamo sono stati contati 36 martiri in tutta la regione, che va dall'Istria fino a Vicenza, Verona, insomma, ecco, i più famosi, che poi sono stati ritrovati negli anni 60 anche i resti, sono i Canziani, ecco, a San Canziano di Sonzo sono stati trovati i resti di Canzio, Canziano e Canzianilla, i tre fratelli, appunto, martirizzati, ma poi c'è San Felice, il martire Felice a Vicenza, ecco, ce ne sono diversi altri. Quindi questo è il periodo, è la realtà della Chiesa ancora con una struttura occulta che doveva, ecco, doveva nascondersi, diciamo, doveva professare la propria fede nell'ambito, ecco, si nascosto della famiglia, del gruppo ristretto dei credenti. Ovviamente le persecuzioni non è che siano in questi primi 2-3 secoli del cristianesimo, non è che siano permanenti, ecco, ci sono periodi di tolleranza, periodi invece di repressione, quindi insomma il cristianesimo può, ecco, diffondersi in questo contesto, e questo poi arriverà nel 313 l'editto di Milano di Costantino e Licinio, i due imperatori. ma che è preceduto in realtà già nel 311 dall'editto di Sardica dell'imperatore Galerio, che dà il primo via, diciamo così, a questa tolleranza verso i cristiani. Successivamente alla conversione di Costantino, sarà Costantino che farà diventare la religione, il cristianesimo, addirittura religione di Stato, dell'impero. Già nel 320 stabilisce che la domenica è festa obbligatoria, no? Ecco, e poi successivamente, pochi anni dopo, ecco, emetterà tutti i suoi editti e provvedimenti per cui sarà addirittura vietato il vecchio culto politeistico romano, della tradizione romana. Quindi è da lì che comincia un'altra storia, ed è in questo contesto di presenza di episcopati alla luce del sole che cominciano a sorgere al posto dei templi. I templi vengono o demoliti o trasformati in chiese, ecco, in tempi cristiani, ecco, e la Chiesa cattolica inizierà ad essere visibile e a promuovere un programma di evangelizzazione metodico sul territorio. La struttura base, appunto, che come punto di riferimento dei vescovi nel territorio, erano le pievi, appunto, con a capo un plebanus. Mi si è domandato da dove arriva il cristianesimo in questa zona. Arriva, come abbiamo detto, sensim et sine sensu, un po' dappertutto arriva, perché ovviamente non è che non chi è stato l'evangelizzatore? La tradizione dice Ermagora da Aquileia. Ermagora sarebbe il presbitero e poi vescovo scelto da Marco, San Marco, che è discepolo di Pietro e che Pietro avrebbe inviato, secondo i racconti tradizionali, ecco, in questa regione per evangelizzarla. Altri dicono Prosdocimo a Padova, che viene sempre scelto da Marco. Ecco, praticamente Marco porta a Roma questi presbiteri, li fa consacrare vescovi, li fa scegliere come vescovi da Pietro. Questa è la tradizione, questi sono i racconti, appunto, di queste leggende tardo antiche. In realtà non lo sappiamo, ecco, certamente la tradizione, che non vuol dire solo tradizione, ma vuol dire trasmissione, la trasmissione del racconto, della fede, della storia e com'è andata, ha una sua importanza, ecco, al di là dei dubbi di chi analizza i testi. Però vi sono tanti elementi che suffragano, diciamo, questa impostazione, cioè il legame con Marco poi diventa vescovo di Alessandria d'Egitto, e la chiesa aquileiese ha sempre tenuto nei secoli successivi un forte legame con Alessandria d'Egitto, più che con Roma. Addirittura c'è un documento nel concilio anti-ariano di Aquileia del 381 in cui i vescovi riuniti in concilio, i vescovi della regione, dichiarano esplicitamente in questo documento: sempre abbiamo tenuto vivi i legami con Alessandria. E questo è importante. Non solo, ma la chiesa di Aquileia, oltre ad avere una liturgia propria con alcune peculiarità specifiche, aveva anche un simbolo, il simbolo della fede, il credo, appunto, che abbiamo sentito prima, aveva un credo proprio, con delle varianti specifiche, diverso dal credo di Roma e molto più vicino al credo di Alessandria. Per esempio, la formula della discesa agli inferi, no? Che abbiamo anche noi recitato per tanti anni, era tipico di Alessandria e di Aquileia. Ecco, ed altri particolari che adesso non sto qui a spiegare. Quindi questo alla fine dice che sostanzialmente Aquileia o Padova comunque sono legati alla figura di Marco, E Marco scrive il Vangelo ovviamente sulla base del racconto di Pietro verso il 70 dopo Cristo, no? Verso il 70. E comunque queste chiese sono legate a Marco e quindi legate al cristianesimo orientale, in modo specifico a quello di Aquileia. Beh, quindi sì, questa è un po' una spiegazione, diciamo così, semplificando al massimo. Certamente. Perché poi certo, potremo è molto interessante, andare in dettaglio comunque, affascinante. Sì. Allora ci noi ascoltiamo. Adesso ci fermiamo per un altro brano di Bella Gerit, La dolce vista. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo come funzionava una pieve. Allora, immaginiamoci la realtà territoriale del primo cristianesimo, dei primi decenni di vita della chiesa locale, dopo la libertà del culto del secondo decennio del IV secolo. Vi era un episcopus nelle città più importanti, non a Treviso. A Treviso non esisteva il vescovo. Il vescovo di Treviso era il vescovo di Altino. Ah. Sappiamo che il primo vescovo di Altino, ecco, è documentato nel 381 e si chiama Eliodoro, Sant'Eliodoro. Perché lo sappiamo? Perché prima, su questo è un santo molto documentato, Eliodoro, perché c'è una grande corrispondenza epistolare tra lui e Girolamo, San Girolamo, col quale aveva condiviso da monaco e da eremita l'esperienza del deserto siriaco, e quindi l'esperienza di Anacoreta, quindi di mortificazione, di penitenza, ma anche di studio, perché questi erano dei grandi intellettuali. Insomma, basta pensare cosa ha fatto e cosa ha scritto la Vulgata della Bibbia, dei certo, libri, certo, eccetera, ma poi tanti altri testi di Eliodoro. Nella corrispondenza, nelle epistole di Girolamo, ecco, prima sono dirette ad Altino, a Eliodorum Monacum e poi a Eliodorum Episcopum. Quindi abbiamo la datazione entro la quale 381 è vescovo, poi partecipa anche lui al concilio antiariano di Aquileia, appunto di quello stesso anno 381. Quindi c'è un vescovo ad Altino e c'è una rete di chiese pievanili, di pievi, ecco, nel territorio. In coincidenza, gli storici ritengono in coincidenza con il pagus romano, cioè con quello che noi oggi definiremo il paesotto, la cittadina di una certa consistenza. Lo chiamavano il pagus. Sì, Pagus. I Pagus praticamente sono identificati anche dagli archeologi in base alla struttura che conosciamo molto più tarda delle pievi. Non erano tanti queste pievi e avevano a capo un plebanus, quindi un presbitero. Dopo un certo momento abbiamo definito piovano ogni parroco, esatto, no? Ogni parroco. Sì, sì. Invece il piovano era il capo, il punto di riferimento solo nella pieve e non nelle cappelle esatto, circostanti. Era soltanto nella pieve che si poteva battezzare. Ecco. All'inizio era solo il vescovo che battezzava, ecco, nei primi secoli. Molto interessante. Sì, solo in città si battezzava. Poi si battezza, dopo la diffusione ovviamente anche dell'adesione dei cristiani, si inizia a battezzare, ma si battezza solo nella pieve. I sacramenti venivano praticamente amministrati, anche le sepolture, soltanto nella pieve. Nelle cappelle la celebrazione dell'Eucaristia, le devozioni, la preghiera, le assemblee anche a livello di cappelle. Dobbiamo però pensare che la popolazione in quel periodo era limitatissima. Noi abbiamo dei dati sulle parrocchie, ecco, del 400, che ci dimostrano che quelli che oggi sono paesi da 3.000, 5.000 abitanti avevano 70 abitanti, sì, anime da comunione, ecco, adulti, cioè dai 14 anni in su, ecco, avevano 70, 100, sparuti, 200, 300, i più grandi, quindi immaginiamoci chiesette anche piccole, sì, sono quelle chiesette romaniche che ancora vediamo in giro, Castelcese, Nerbon di San Biagio di Callalta, sì. San Martino, sempre San Biagio di Callalta, sì. Ecco, chiesette di questa dimensione, ma potrei citarne tante altre in giro per i territori, Borghetto, non so, ecco. E allora, quindi il cappellano, che in genere poteva anche non essere un presbitero, era un chierico sì. Ecco, svolgeva appunto questa funzione di coordinamento, quelli che sono oggi i laici impegnati, sì, sì. Ecco, diciamo esatto. Così, mentre era il plebano che amministrava i sacramenti. In genere queste chiese pievanili venivano erette sulle vecchie aree compitales romane, cioè cosa vuol dire? Vuol dire su delle aree che avevano già un senso sacrale anche per i romani e si trovavano sui confini di grandi proprietà, quindi su dei quadrivia, su dei trivia, su questi luoghi. Per i romani i confini erano sacri. Dove c'erano i termini, il termine era proprio una colonnina in pietra scolpita che divideva appunto i confini, le proprietà e su questi spazi i proprietari confinanti rinunciavano a una parte di terreno per far luogo a queste presenze sacre già in età romana. Il cristianesimo ha dato una inculturazione appunto cristiana, ecco, a quelli che erano luoghi sacri romani, quindi sostituendo praticamente il significato, ecco, del sacro pagano con il sacro cristiano. Queste erano queste, ovviamente c'era anche un'altra sovrastruttura, diciamo così, oltre alle pievi, c'era come un coordinamento zonale delle pievi. Per esempio nella nostra diocesi di Treviso c'erano quattro arcipreture alle quali facevano riferimento i pievani, quindi, e sono state individuate come quella di Cornuda, di Quinto, di Godego e di Mestre, perché ricordiamoci che Mestre è sempre stata per quasi 2 millenni, ecco, in diocesi di Treviso, ecco, e quindi ecco, non era patriarcato, insomma, è stato durante il periodo del vescovo Longhin che è stato ceduto Mestre e tutto il territorio circostante al patriarcato di Venezia. Noi possiamo avere un quadro preciso di quali erano le pievi antiche anche dai documenti più tardi, perché anche le pievi e le chiese pievanili hanno le gambe, nel senso che le vicende da un lato ambientali, dall'altro umane, hanno portato anche nel passato a dei cambiamenti. Quindi una pieve, il titolo di pieve viene spostato in un'altra chiesa, poi ne faremo qualche esempio. Ecco, però abbiamo dai diplomi imperiali concessi a favore dei vescovi, soprattutto nel periodo post-carolingio, il periodo degli imperatori, degli ottoni, ecco. E quindi soprattutto dal X al XII secolo. Poi abbiamo tutte le bolle pontificie di quegli secoli concesse a favore dell'Episcopato di Treviso, che ci fanno l'elencazione delle pievi antiche. Quindi noi sappiamo perfettamente quali sono. E sicuramente erano quelle delle origini del cristianesimo, quel quarto secolo in cui sono nate le pievi. Una cosa diversa dovremmo però dire per le cappelle. Le cappelle si diffondono in modo particolare tra VII e VIII secolo e rispondono a un progetto politico più che pastorale. Cioè, con la conquista da parte della Venezia, della nostra regione, da parte dei Longobardi, i Longobardi che allora sono di credo ariano e che successivamente diventeranno cattolici, i Longobardi utilizzeranno la pieve come forma, la cappella come forma di controllo del territorio, con del loro clero. Ecco, e quindi siamo in un periodo già abbastanza documentato, con del loro clero posto a capo come responsabile di queste cappelle. Per cui è una forma proprio di controllo vero e proprio. Estremamente interessante. Facciamo un ulteriore intervallo musicale con Jacopo da Bologna posando sopra un'acqua. Thank you. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, che al quale volevo fare una domanda. C'è un esempio di queste chiese piovanili che lei ha studiato in modo particolare? Sì, proprio di recente è stata restaurata l'antica chiesa, la pieve, ecco, di San Cipriano di Roncade. Un restauro che dura ormai da 10 anni, l'ho avviato ancora io, ecco, il primo cantiere quando avevo responsabilità in quel di Roncade. Questo mi dà l'opportunità di spiegare che questo è un tipico esempio di una di quelle pievi che con le gambe di cui ho accennato in precedenza, nel senso che fino al XII secolo San Cipriano non esisteva. Quel territorio si chiamava Musestre di sopra oppure Musestre Maggiore. No? Esatto. Ecco, e solo per iniziativa, da un lato del patriarca di Aquileia, che dona quel terreno a un monastero di Murano, San Cipriano di Murano. E poi di San Cipriano di Murano sorge la prima cappella, la prima chiesa. Quindi siamo molto tardi. Ecco, nel XII secolo, 1138 in modo specifico, e da lì si comincia a chiamare quel territorio San Cipriano, perché era proprietà di San Cipriano di Murano. Poi per la gente per secoli si è detta San Civran, no? Alla Veneta. Civran e San alla Veneta. Ecco, la pieve del territorio era Vaglio. La chiesa importante di tutto quel territorio tra Altino e la Callalta era la chiesa di San Nicolò di Vaglio, che oggi è una parrocchietta, credo che farà sui 500 abitanti, famosa perché adesso ci sono i padri del Pime di Treviso che ne hanno la cura e la responsabilità. Vaglio, antica pieve, alla fine del 300 viene inondata da una alluvione praticamente. Il territorio rimane desertificato, paludoso, la chiesa distrutta e lentamente le funzioni passano alla chiesa vicina di San Cipriano, fin tanto che nel 1432 il rettore della chiesa, ancora non si chiamavano parroci, il rettore della chiesa di San Cipriano fa istanza alla curia romana di ottenere il trasferimento del titolo di pieve da questa chiesa abbandonata di Vaglio alla sua di San Cipriano. Il Papa in quel periodo era una persona che conosceva la situazione direttamente, perché era un condulmer di Venezia, Papa Eugenio IV, ecco, emette la bolla e lì si passa, e da lì comincia la storia piovanile di San Cipriano. Questo è il tipico esempio, è un tipico esempio che si presta a dire che ci sono stati dei cambiamenti radicali, ecco, certo, nel tempo. In genere però i titoli si consolidano. Beh, un altro caso è la chiesa di la pieve di San Cassiano di Quinto, no? Oggi è una cappella, una chiesa di campagna, diciamo così, è più importante Quinto rispetto a San Cassiano, però la pieve era San Cassiano. Addirittura c'è l'Agnoletti che dice che era la sede San Cassiano di Quinto del corepiscopo di Treviso, che sarebbe stata una specie di figura che poi è sparita, ecco, dei primi secoli della libertà del cristianesimo, una figura di vescovo ausiliare, insomma, che aveva sede a San Cassiano di Quinto. Corepiscopo. Poi non ci sono i documenti su questo, insomma, è una deduzione che fa lo storico diocesano ottocentesco Lagnoletti. Potremmo citare anche un altro bel esempio invece di una chiesa, prima accennavo il fatto di una cappella che è sorta nel periodo longobardo. In genere noi le conosciamo dei titoli delle chiese. I santi hanno come patrono, come titolare, dei santi tipici della devozione longobarda. Tutti San Donato, ecco, San Donato di Piave, sì, ecco, è chiaramente longobarda, periodo longobardo, no? Ecco, sì. Ma poi abbiamo San Michele Arcangelo, allora abbiamo Melma. Melma è l'attuale Silea, no? Sì. Ah. Mai nell'archivio si va in cerca di Silea, non esiste Silea, è un termine recente, si chiama Melma, che è un termine germanico e quindi longobardo, Melm, no? Ecco, è un termine, un germanismo. Che vuol dire? Che vuol dire fango, Melma, proprio letteralmente. Sì, sì, sì, sì. Però è di origine, è un lessico germanico, e quindi, del periodo longobardo. Ecco. Melma ha una cosa particolare, apparteneva ai canonici, però questo in epoca tarda, cioè quando è sorto il capitolo della cattedrale di Treviso, cioè un po' prima del 1000, ecco, apparteneva ai canonici del Duomo di Treviso. Ah. Questo mi consente di dire un'ulteriore cosa, cioè che nella città, anche nella città, esisteva una pieve, una sola pieve, quella del Duomo. Ecco, e si battezzava soltanto nel battistero. Soltanto nel battistero per tutta la città. Fino alla fine del Settecento si è battezzato solo nel battistero. Estremamente interessante. Sì. Cosa stupenda da sentire. Allora, niente, allora passiamo a una domanda successiva che chiaramente credo sia complessa da rendere. Pievi e monasteri, che tipo di rapporto esisteva tra questi? Allora, abbiamo visto le pievi praticamente alla fine riescono a controllare tutto il territorio. È un servizio da rendere al culto, alla celebrazione eucaristica, all'amministrazione dei sacramenti e quindi dovevano essere diffuse in tutto il territorio. Una storia ben diversa è quella del monachesimo. Lasciamo perdere il monachesimo delle origini, quello di tipo così non cenobitico, cioè senza vita in comune, quello svolto come attività di anacoreti, certo, oppure certo. Di non strutturato. Non strutturato, diciamo. Ecco, il monachesimo come lo conosciamo noi in Occidente, tralasciando appunto l'esperienza di Sant'Antonio nel deserto siriano ed egiziano, insomma, quindi da quello di Pacomio, che era stato anche ripreso ad Aquileia nel seminarium aquileiense, insomma, dove facevano vita in comune, ma alcuni intellettuali, quelli che poi diventeranno i grandi vescovi, grandi figure di intellettuali, tipo Cromazio di Aquileia, oppure Rufino di Concordia, eccetera. Lasciando perdere questo, noi il monachesimo occidentale è quello di Benedetto. Quindi San Benedetto fonda Cassino, Monte Cassino, il monastero nel 529 e detta la regola che poi è stata seguita per secoli e secoli tutto il monachesimo, sì. Ecco, la regola benedettina nel 530-540. Ecco, da lì possiamo ragionare di presenza di monasteri, ma nella nostra regione è anche questa una presenza tarda. Allora, abbiamo detto che il cristianesimo arriva tardi qui sostanzialmente, almeno come forma organizzata, eccetera. Sì, esatto. Ecco, molto più tardi, non so, di altre regioni anche distanti da Roma, tipo l'Emilia, tipo la Liguria, eccetera. Ma arriva tardi anche l'insediamento dei monaci. Vorrà pur dire qualcosa in questa regione che si perde sempre il treno, no? Sì. Che si perde il treno. Sì. Ecco, anche parte, da questo punto di vista. Scherzi a parte, ecco, diciamo, i primi monasteri di cui abbiamo documentazione sono San Pietro e Teonisto di Casier nel 710, San Paolo di Lanzago, dove viene fondato da questo monastero da una coppia di sposi, ecco, un diacono e sua moglie nel 726-727, poi c'è il monastero di Santa Maria e Santa Fosca di Treviso, che era vicino all'attuale Santa Maria Maggiore, e poi c'è quello di San Pietro e Vito di Treviso, nella zona centrale di San Vito, anche se qui abbiamo il dubbio che si tratti più di uno xenodocium, cioè di un punto per di appoggio e di sollievo per gli ammalati, insomma, ecco, un'opera di carità. E abbiamo però anche i monasteri che sorgono nella gronda lagunare veneta, sono di questo periodo e sono piuttosto tardi. alcuni di questi, quello di Brondolo, ecco, o di quello di Olivo, o quello di San Servolo, insomma, sono sempre lì tra l'ottavo e il nono secolo. Mm. Abbiamo una dinamica diversa invece nel decimo secolo. Nel decimo secolo cominciamo ad avere l'insediamento di monasteri nel territorio. Nel frattempo, da Casier, quello di Casier è venuto a San Martino, si è inurbato. Invece, in questo decimo secolo è il periodo anche dell'incastellamento, cioè in cui nel territorio le famiglie nobili, le famiglie potenti cominciano a costruirsi i loro castelli. La stessa dinamica avviene per i monasteri. Allora abbiamo quello di Pero, che oggi noi conosciamo come Monastier, che è della metà del X secolo. Abbiamo Mogliano Veneto, quello delle monache benedettine del 996. Proprio recente. Un fenomeno diverso è ancora quello dei secoli successivi, XI e XII secolo, dove abbiamo dei monasteri fondati da famiglie potenti del territorio. Allora, il Collalto, per esempio, alla metà dell'XI secolo fondano Sant'Eustachio di Nervesa. Poi abbiamo lo stesso iniziativa di famiglia nobiliare, quello di Santa Bona di Vidor nel 1106, e potremo continuare con quello di Santa Maria Cavassagra, di Follina, e le stesse monache, che poi camaldolesi, che poi verranno in centro a Treviso, a Santa Cristina, dove c'è ancora il monastero, sorgono invece a Quinto, hanno la loro origine a Quinto nel 1187-1189. Ecco, la realtà di questi monasteri con la Chiesa, col clero secolare, ecco, è una realtà sfuggente, nel senso che molto spesso entrano in conflitto, rivendicano la loro autonomia, sia per i legami con delle famiglie che li hanno fondati, ma sia perché si pongono direttamente, ecco, sotto la protezione o dell'imperatore, da una parte, esempio Monastier, vero, che è legato ad Aquileia ed è di fondazione imperiale, oppure sotto la diretta protezione del Papa, del quale ottengono privilegi, bolle, ecco, ottengono il riconoscimento della loro autonomia. Quindi diciamo, Chiesa secolare e realtà regolare, religiosa, che erano tutti benedettini in questo periodo, sono due realtà per tanti versi estranei e molto spesso anche in conflitto. Beh, diciamo che è una, stata una cosa un'esposizione vertiginosa, mamma mia, delle cattedrali ed altro. Io ascolterei ancora un'ora. No, è eccezionalmente interessante, sì, interessantissimo. Solo che richiede evidentemente altre presenze successive, ma che noi chiediamo, naturalmente chiediamo, anzi obblighiamo in solito il nostro ospite a venire un'altra volta. Benissimo, perché, Antonio, perché sì. È straordinario, no, questa pertinenza anche con il presente, io sì, direi. Perché studiando questa storia, dagli elementi della storia, possiamo trarre dei paralleli, fare dei paragoni, ecco, con il nostro presente. Il cervello dell'uomo è lo stesso anche dell'uomo di 2000 anni fa. Perfetto. Quindi è vero, ragioniamo è vero. Lo stesso modo. Con è questa vero, citazione sì. Noi ringraziamo il nostro ospite e vi diciamo arrivederci alla prossima Anch'io volta. Anch'io ringrazio e dico, come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.